Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, canto 33. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola ai capelli del capo che gli avea di retroguasto. Poi cominciò. Tu vuoi ch'io rinovelli disperato dolor che il cor mi preme già pur pensando pria ch'io ne favelli. Ma se le mie parole esser dien seme che frutti infamia al traditor ch'io rodo, parlare e lagrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sei né per che modo venuto sei quaggiù, ma fiorentino mi sembri veramente quand'io t'odo. Tu dei saper ch'io fui conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri, or ti dirò perché i son tal vicino. Che per l'effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui io fossi preso, e poscia morto dir non è mestieri. Però quel che non puoi avere inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Breve pertugio dentro la muda, la qual per me ha il titol della fame, e che conviene ancor ch'altrui si chiuda, m'avea mostrato per lo suo forame più lune già, quand'io feci il malsonno che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e lupicini al monte, perché i pisan veder Luca non ponno. Con cagne magre, studiose, conte, gualandi, con sismondi e con lanfranchi, s'avea messi dinanzi della fronte. Impicciò il corso, mi parieno stanchi lo padre e figli, e con l'agute scane mi parea lor veder fenderli fianchi. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentì fra il sonno i miei figliuoli, che eran con meco e di mandar del pane. Ben sei crudel, se tu già non ti duoli, pensando ciò che il mio cor s'annunziava, e se non piangi, di che pianger suoli? Già eran desti, e l'ora s'appressava che il cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava. E io sentì chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, ond'io guardai nel viso ai miei figliuoi, senza far motto. Io non piangea, sì dentro impetrai. Piangeva Nelli, e Anselmuccio mio disse, tu guardi sì, padre, che hai? Perciò non lagrimai né rispuosi io, tutto quel giorno nella notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscio. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso, ambo le man per lo dolor mi morsi, ed ei, pensando ch'io il fessi per voglia di manicar, di subito levorsi, e disser padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi. Tu ne vestisti queste misere carni, e tu le spoglia. Quetami allor per non farli più tristi, lo dì e l'altro stemmo tutti muti. Ahi, dura terra, perché non t'apristi? Poscia che fummo al quarto di venuti, Gaddo mi si gittò disteso ai piedi, dicendo, padre mio, che non m'aiuti. Quivi morì, e come tu mi vedi, vid'io cascarli tre ad uno, tra il quinto dì e il sesto, ond'io mi diedi, già cieco, a brancolar sovra ciascuno, e due dì li chiamai, poi che fur morti, poscia, più che il dolor, potei il digiuno. Quand'ebbe detto ciò, con gli occhi torti, riprese il teschio misero coi denti, che furo all'osso come d'un can forti. Ai Pisa, vituperio delle genti del bel paese laddove il si suona, poiché i vicini a te punir son lenti, muovasi la capraia e la gorgona, e faccian siepe ad Arno in su la foce, sì ch'egli annieghi in te ogni persona, che se il conte Ugolino aveva voce d'aver tradita te delle Castella, non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. Innocenti facea l'età novella, novella Tebe, Uguiccione il brigata e gli altri due che il canto suso appella. Noi passammo oltre, là ove la gelata ruvidamente un'altra gente fascia, non volta in giù, ma tutta riversata. Lo pianto stesso li pianger non lascia, e il duol che trova in su gli occhi rintoppo si volge in entro a far crescer l'ambascia che le lagrime prime fanno groppo, e sì come visiere di cristallo riempion sotto il ciglio tutto il coppo. E avvegna che sì come d'un callo per la freddura ciascun sentimento cessato avesse del mio viso stallo, già mi parea sentire alquanto vento, perch'io, maestro mio, questo chi muove? Non è qua giù ogni vapore spento? Ond'egli a me. Avaccio sarai dove, di ciò ti farà l'occhio la risposta, veggendo la cagion che il fiato piove. E un dei tristi della fredda crosta gridò a noi. Oh, anime crudeli, tanto che data ve l'ultima posta, levatemi dal viso i duri veli, sì ch'io sfoghi il duol che il cor m'impregna, un poco, pria che il pianto si raggeli. Perch'io a lui, se vuo ch'io ti sovvegna, dimmi chi sei, e s'io non ti disbrigo, al fondo della ghiaccia ir mi convegna. Rispuose adunque, io son frate Alberigo, io son quel dalle frutta del malorto, che qui riprendo dattero per figo. Oh, diss'io lui, or sei tu ancor morto, ed egli a me. Come il mio corpo stea, nel mondo su nulla scienza porto. Cotal vantaggio a questa Tolomea, che spesse volte l'anima ci cade, innanzi Catropos mossa l'idea. E perché tu più volontier mi rade le invetriate lagrime dal volto? Sappie che, tosto che l'anima trade come feci io, il corpo suo l'è tolto da un demonio che poscia il governa, mentre che il tempo suo tutto si avvolto. Ella ruina in sì fatta cisterna, e forse pare ancor lo corpo suso dell'ombra che di qua dietro mi verna. Tu'l dei saper, se tu vien pur mo giuso, egli esser branca d'oria, e son più anni poscia passati che il fu sì racchiuso. Io credo, diss'io lui, che tu m'inganni, che branca d'oria non morì unquanche, e mangia, e be, e dorme, e veste panni. Nel fosso su, diss'el, de male branche, là dove bolle la tenace pece, non era ancor giunto Michel Zanche, che questi lasciò il diavolo in sua vece, nel corpo suo ed un suo prossimano, che il tradimento insieme con lui fece. Ma distendi oggi mai in qua la mano, aprimi gli occhi. E io non glieli apersi, e cortesia fu lui esser villano. Ai genovesi, uomini diversi, d'ogni costume e pien d'ogni magagna, perché non siete voi del mondo spersi? Che col peggiore spirito di Romagna trovai di voi un tal che per sua opera in anima in cocito già si bagna, e in corpo par vivo ancor di sopra.